ci stanno dei politici che hanno fatto causa e vedono violato il principio di democrazia. E proprio per questo la Corte di Karlsruhe ha detto noi non siamo qui a vedere tutto in modo sbrigativo in una notte, ma vogliamo fare un pochino anche in modo dimostrativo, diversamente dal Bundestag che fa tutto così in una giornata, e vogliamo guardare dentro. E si prevede che adesso anche il presidente della Bundesbank, Weidmann, abbia un peso in questo giudizio, perché lui dice non è detto che questo fondo di salvataggio europeo non abbia dei meccanismi che poi cambiano la natura di questo fondo, e poi potrebbe anche essere che questo fondo sia un quasi un assegno in bianco, così quando finisce i soldi subito bisogna ridargli degli altri, e allora non ci sarebbe più il diritto del Parlamento tedesco di sempre approvare qualsiasi spesa del governo, e in quel senso anche del governo tedesco quando dà soldi all'Europa, e questo potrebbe essere poi un rischio al principio che non si tassa senza anche approvarlo democraticamente.